A tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio da Verona, meglio da Vinitaly, stand di Radio 24, ospite di Confagricoltura. Un saluto che vi arriva, oltre che da me, dalla task force di Radio 24 presente qui a Vinitaly con Valerio Usiello, con Filippo Aureggi, con Davide Ciocia. In rappresentanza del popolo di ascoltatori c'è qui anche in studio un fan della prima ora, si chiama Simone De Gregori, e di fronte a me, indovinate chi c'è? C'è, a Verona ci può essere solo una persona che si chiama Osvaldo Bagnoli. Bentornato Osvaldo. Ciao Gigi. Allora, io non saprei bene perché con Osvaldo Bagnoli il calcio è a 360 gradi e non è soltanto pallone, come sapete, ma è tutta l'umanità che un tempo c'era intorno e che adesso si fa, magari c'è ancora, per carità, ma si fa forse un pochino più di fatica a rintracciare. Ovviamente la presenza di Bagnoli non esclude i vostri interventi, tutt'altro, quindi prenotatevi per tempo all'800 24 00 24. Parleremo ovviamente del Verona, parleremo del Genoa, che come sapete è rimasta la seconda squadra nel cuore di Osvaldo, ma cominciamo dall'Italia di ieri. E allora ascoltiamo subito un paio di commenti, non tanto quello che Lippi ha detto a caldo, perché insomma non era di eccellente umore, quindi risparmiamoci la tirata contro l'arbitro, che poi salterà fuori più tardi da altri versanti. Sentiamo invece il suo commento alla partita. Sono stati 10 giorni importanti questi per il processo di evoluzione, di crescita, per tutte le cose che vogliamo cercare noi. Abbiamo avuto la sensazione che poteva essere questa un'iniezione di fiducia fantastica, perché vincere una partita giocata 90 minuti in 10, perché come dicevo prima, un conto è giocare mezz'ora o 40 minuti in 10, un tempo, ma 90 minuti è un dispendio di energie che è assolutamente difficilmente sostenibile. Invece i ragazzi l'avevano sostenuto con grande compattezza, mancavano 3 minuti e perciò questo deve rimanere nella convinzione nostra. C'è il grande dispiacere e grande desolazione ovviamente. Rimonta finale, rimonta che Lippi definisce, hai sentito Osvaldo, grosso modo quasi inevitabile per un fatto di usura, di dispendio fisico, di grande spinta degli avversari. Decisione dell'arbitro certamente penalizzante, io non l'ho trovata così scandalosa come l'ho sentita raccontare e come l'ha presa Lippi e altri. Ma io penso che il pareggio sì, appunto, è meritato, ma al di fuori di quello che era il 10 e eravamo in 10, a me ha dato l'impressione, quello che ho visto, perché ho perso un po' di partita al secondo tempo, però tutto il resto che ho visto, sia il primo tempo che un pezzo del secondo tempo, insomma, a me mi ha dato l'impressione che loro erano una buona squadra, perché lì hanno dovuto attaccare e giocare nella metà campo nostra, diciamo. Sì. Eppure loro la palla la facevano girare bene e mi ha dato l'impressione che non era una buona squadra. Una buona squadra. Penso che se per caso invece di andare in vantaggio noi vanno in vantaggio loro, non so se noi saremmo riusciti a recuperare un risultato. Almeno questo è stata la mia impressione. Senti, e questo quindi proiettandolo sulla partita di ritorno, perché non c'è più soltanto Irlanda-Italia, ci sono tante altre partite in mezzo e soprattutto loro hanno un paio di trasferte particolarmente insidiose proprio nel prossimo periodo. Però con 2 soli punti di vantaggio, se gli irlandesi dovessero mantenerli, la partita di ritorno diventa complicata a sto punto. Adesso non so se ieri non mi sembrava un modo di essere in campo e di giocare casuale o di giornata felice. Mi sembrava poi dopo, quando tu vedi questo King che l'hai visto nei campionati inglesi, certo. Adesso io non seguo i campionati stranieri, no? Mentre qualche volta vedo nelle coppe certi giocatori, mi ha dato l'impressione che la squadra era buona questa. Io adesso ti farei ascoltare il commento del tuo vecchio, non solo tuo, ma tuo certamente sì, per ragioni di radici storiche, del tuo vecchio amico Trapattoni. E poi parliamo di questo confronto a distanza tra Trapattoni e Lippi. Sentiamo. Devo dire che ogni allenatore gioca per vincere, però bisogna anche accontentarsi. Io so che contro l'Italia ci si doveva anche accontentare, perché noi era l'altra partita che dovevamo vincere contro la Bulgaria. e questa sera, pur giocando 1:20, bisogna dare atto alla squadra italiana, che sappiamo che come difensori sono non solo fra i migliori del mondo, ma hanno un'acutezza, un'intelligenza tattica superiore ad ogni altra squadra, quindi sapevo che era molto difficile entrare. Da questa parte del campo non lo so, so che il mio giocatore aveva un sopracciglia rotto, non so, bisogna chiedere, sai, l'arbitro sicuramente per decidere dopo pochi minuti, vista così non è tanto grave. Sicuramente il cammino è lungo per tutti, è lungo per noi come è lungo per l'Italia, però per noi oggi era importante tenere distante le altre, con una distanza che ci mette un po' tranquilli anche per eventualmente poi il futuro, secondo posto. Lo riconosci? Continuiamo a riconoscerlo, no? Mi pare, in questa passione. Sì, è bene. Il suo modo di parlare penso che sia, non dico unico, ma sì, è riconoscibile, via. Sì, è proprio un'impronta che non tramonta. Lui stesso ha ammesso che quella decisione arbitrale era un po' severa. Sì, in verità io non l'avevo visto in diretta. Sì. Io sono arrivato dove ho visto la partita un po' dopo, e dopo l'ho rivista invece fra il primo e il secondo tempo, insomma, e mi ha dato un'impressione addirittura poi vista in varie sì, situazioni, proprio se si è visto che lui non ha fatto niente per fare un fallo, insomma. Non c'era volontarietà. Probabilmente ho sentito i commenti e penso che abbiano ragione a dire che forse si è fatto impressionare dal sangue. Sì. C'è stato un cortocircuito probabilmente dovuto a questo, che lui si era accorto, lui non ha fischiato, è stato il segnaline, il guardaline a tirargli l'attenzione. Quindi lui ha intuito qualcosa di grave. Perché però non ha visto probabilmente. Però non ha visto, arriva là, vede il sangue e ha... Sì. E a cosa? Io ho trovato però non di ottimo gusto, no? da parte di Lippi partire subito a fine partita con questa cosa dell'arbitro, perché in fondo pochi giorni prima in Montenegro era stato risparmiato Cannavaro questa non l'ho vista perché ero lì, ero a Genova, lo possiamo garantire tutti. Eri a Genova, ero a Genova. Una rimpatriata? No, per una situazione diciamo molto triste, però che poi dopo incontri delle persone che vedi con molto piacere. No, sono andato per una, hanno organizzato un derby passato e vicino fra Genova e Sampdoria, e l'incasso è stato devoluto alle associazioni. C'era presente quel giocatore che c'è in carrozzina, come si chiama? Borgonovo. Che insomma, io sono stato presente 3 anni fa alla serata di Signorini, insomma, però lo stadio di Genova in queste occasioni qua è sempre splendido. Come sembrava una partita di campionato, c'era 20.800 sul giornale, c'era 20.800 paganti con un incasso, e dico che sono cose che non in tutti i posti riescono così bene. Allora tu mi dai il destro, perché bisogna provare tutti insieme a farla riuscire bene anche da un'altra parte. Perché? Perché tutto questo era nato con un Fiorentina-Milan, no? di un paio di mesi fa, sì, sempre per la Fondazione Borgonovo. È continuata con questo derby di Genova che ci hai raccontato la settimana scorsa. Sì, però avevo letto la lettera che mi era arrivata, non so se era per 2 associazioni. Sì, mi pare. Sì. Era Nappi che è stato l'organizzatore, e devo dire che è stato bravissimo a organizzare una cosa del genere, proprio perché merita. Non è facile organizzare. Non è facile, no, però è un dovere morale. Certo. Ora, visto che Firenze si era comportata bene, benissimo si è comportata a Genova venerdì scorso, venerdì, cioè domani sera, tocca a Brescia comportarsi bene. Perché? Oh. Perché succede la stessa cosa a Brescia, si chiama un calcio alla SLA anche lì. Il ricavato dell'incontro sarà devoluto alla Fondazione Stefano Borgonovo e all'AISLA. E giocano le vecchie glorie di Brescia e Milan. Allora, visto che si vedranno in campo, poi magari in questi casi non si sa mai se tutti giocano o se qualcuno partecipa o fatto di presenza, ma vi do qualche nome: per il Milan Ancelotti, Albertini, Baresi, Boban, Costa Curta, Desai, Donadoni, Ganz, Giunti, Leonardo, Massaro, Simone, Stroppa, Tassotti, Vierco, insomma, Rossi. E per Brescia Altobelli, Appia, Baggio. Baggio non giocherà, ma sarà certamente presente e anche stavolta, come già a Firenze, accompagnerà in campo Borgonovo. Cagni, i fratelli Bonetti, De Paola. De Paola è stato uno degli organizzatori insieme a Silvia Corioni, la figlia del presidente del Brescia Corioni, Di Biagio, Piovani, Quaggiotto, Turkilmaz, Zorato. Insomma, è un cast, è certo, un cast d'eccezione per Brescia anche questo. Brescia in genere negli ultimi tempi è un pubblico freddo, freddo, contestatore e soprattutto rarefatto. Beh, mi auguro che segua l'esempio di Firenze e di Genova. Certo, ma io penso che sicuramente penso che risponderà. Si risponderà, sì. Domani sera, vi ricordo, alle 20:30 allo stadio Rigamonti di Brescia. Torniamo ancora brevemente all'Italia, torniamo al una sensazione che ho avuto, ma che ovviamente tu mi smonterai subito, che è questa: nel secondo tempo, per carità, quando una squadra, come ha detto Lippi, gioca 90 minuti interi di inferiorità numerica, non è che puoi andare a trovare tanto le pulci. Però in vantaggio di 1-0 a fine primo tempo, io non so se togliere Pirlo, e cioè togliere il centrocampista che più poteva, direi, no, per potenzialità, aprire il gioco di rimessa, e poi successivamente levare anche Pepe, insomma, e progressivamente ridursi in pratica a farsi schiacciare nella sua area, cioè l'avesse fatto Trapattoni probabilmente gliene avrebbero dette di tutti i colori, l'ha fatto Lippi, ma non vorrei che avesse accusato la vicinanza di Trapattoni per questa mossa qua, lo so, sì, adesso messa così, il tuo modo di raccontarla è messa in un modo tale che c'è solo da sorridere, però... No, io penso, tra l'altro, il tempo di partita che ho perso è stato proprio i primi 25 minuti del secondo tempo, no? Che è dove abbiamo perso campo. Ecco, dove poi, quando ho rivisto la partita, ho visto che c'erano in campo dei giocatori e mancava qualcuno di quelli, certo, che magari. Però non ho saputo, può darsi, tra di me ho pensato magari si è fatto male, magari l'ha fatto per un turno di riposo, ha voluto far vedere un altro giocatore, sai, le motivazioni possono essere diverse, insomma, ecco. Sì. E allora non saprei cosa dire, dico la verità. Però forse ma questo non è un atto d'accusa, è un'osservazione, così, anche di colore, se vuoi, no? Dato che Trapp è sempre stato accusato, no? Di coprirsi, sì, sì. Beh, insomma, ieri sera l'ha fatto Lippi, e dato che c'era Trapattoni vicino, non vorrei che fosse stata un'influenza astrale, no? Non è stato questo, però qualche perplessità l'ha lasciata, perché a gioco lungo loro, come dicevi tu, no, non irresistibili in area, no, anche perché adesso tu mi hai detto che anche il 7 si è stato sostituito, anche Pepe. Che ti dirò che nel primo tempo l'ho visto fare due o tre recuperi in fase difensiva, sì, con una corsa e con una capacità difensiva che mi ha sorpreso, no? E in più lui riesce a far bene anche avanti, perché dopo ha fatto un'azione che non so se ha preso il palo o se è stato salvato ha preso il palo esterno con la gamba del difensore, non che ho visto bene lì, sì. E che ha lasciato una grande impressione su di me, insomma, questo giocatore, e capisco perché Lippi ha fiducia e lo convoca, certo, però il fatto che appunto tutti e due siano finiti fuori tra il primo e il nono del secondo tempo, beh, insomma, qualche piccola perplessità l'ha suscitata, alla luce poi è anche il senno di poi, nel senso che arrivi alla fine, gli altri pareggiano, è ovvio che insomma non si ricordava in genere qualcosa di leggermente più coraggioso da parte di Lippi, no? Ma non a prescindere, ma tante volte io penso che in certe situazioni magari pensi che fare certe sostituzioni forse possa adesso io non conosco bene, perché adesso il calcio non lo seguo bene, insomma, però tante volte magari togli una punta, diciamo, che torna, no, magari, e invece metti dentro un centrocampista che attacca, e in teoria poi possono essere le stesse cose, insomma, sì. Via, sì, ecco, sì. Però non lo saprei, ecco, perché non li conosco bene tanto, non c'è una ricetta esatta, non c'è colpa, non c'è dolo, non c'è inganno, non c'è nulla, c'è stata questa piccola perplessità. No, io penso che in una partita che vale la qualificazione del campionato, un arbitro prima di ti manda fuori uno al terzo quarto minuto di una partita, dovrebbe analizzarla bene, insomma, dovrebbe starci un po' più ti ripeto, lui non perché, avendo visto, si è fatto suggestionare da sto guardalino, è arrivato lì, si è impressionato per il sangue, quello sì che è un grosso errore, almeno io la penso così, no, insomma. No, giustamente, ma c'è, quello è un grosso errore sicuro, avendone avuto uno a favore, no, giusto la partita, io prima, non l'ho vista perché ero a Genova, strillare un po' meno. È il primo momento del primo intervallo, sentiamo come va sulle strade. A tempo di sport adesso cominciamo a dare spazio anche a qualche vostro intervento, poi ricominciamo con Osvaldo Bagnoli e dall'Italia accorciamo un pochino le distanze. Ivan ha chiamato la provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Okay, io volevo parlare dell'espulsione di Passini, perché mi sembra proprio tragico vedere un altro che fa una cosa del genere, perché io che ho fatto l'allenatore di calcio, anche bravo, posso dire una cosa, che è una regola talmente sbagliata quella di pulire sempre chi salta per dopo, ma perché in questo caso quello là salta dopo, no? Io sono saltato per primo e la regola di dar punizione sempre contro a chi salta per primo mi sembra un po' sbagliato, perché basta al difensore o all'altro avversario di tiro fuori il petto, lo sbilancio, mal che vada mi dà un mi prende col gomito e basta. Non credo, Ivan, che sia stata questa la valutazione, gliel'ho detto prima, poi sentiamo cosa ne pensa Bagnoli. Secondo me è stato quello che l'arbitro non ha visto, e quando un collaboratore ti richiama l'attenzione tu pensi sempre che sia successo qualcosa di più grave di quello che è, questo già è abbastanza normale, vai là e vedi sangue, evidentemente è impressionabile sto tedesco, non so cosa farci. Questo gli ha mimato il gesto del braccio largo e è stato tratto in inganno, no Osvaldo? Penso che sia successo questo anch'io, insomma, adesso, perché sì, se no, però l'abito è sempre accusabile di essere stato troppo e di non aver domandato, se non aveva visto di non andare da suo collega certo, a domandare, insomma. Certo, sicuro, però Non mettiamola come se adesso no, ci fosse qualcosa che non torna. Mi sentirei distruggere che un arbitro tedesco dopo 3 minuti, una partita che l'Italia gioca in casa, arrivi lì per farti restare in 10. No, evidentemente ha visto male. Aveva 90 minuti a disposizione. È andata così e basta. Poi magari in un altro paio di circostanze invece è stato ha valutato in maniera diversa, se proprio voleva infierire c'era un'uscita di Buffon nel secondo tempo su un attaccante loro che poteva anche essere valutata diversamente. Enzo, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo intervenire sull'espressione di Pazzini, che sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatore di prima, non era l'espulsione, sicuramente il ragazzo non ha fatto apposta, ma ciò che a me dispiace è che ieri sera, appena presentato in sala stampa, l'allenatore dell'Italia ha puntualizzato subito che l'arbitro ha rovinato la partita, ma io ripeto, sono dispiaciuto per Pazzini, ma anche sabato scorso l'arbitro ha rovinato la partita in quanto non ha espulso Cannavaro per un fallo chiaramente da espulsione. Allora anche io in quel caso sarei stato molto felice da sportivo sentire l'allenatore dell'Italia che avesse detto che l'arbitro ha rovinato la partita contro il Montenegro. Bisogna avere un minimo, lo so, c'è da ridere, ma la questione è questa, bisogna avere anche un minimo di autocritica certe volte e ringraziare gli arbitri quando ci aiutano, per poi poter dire che l'arbitro ieri sera ha sbagliato. Sì, o quantomeno voglio dire, non, anziché tacere una volta e strepitare un'altra, facciamo così, tacere una volta e la volta dopo far notare giustamente che è stato preso un provvedimento disciplinare ingiusto e che questo ha condizionato la partita, perché oggettivamente è vero, senza poi appunto usare troppo le maiuscole o troppi accenti. Sentiamo cosa ha detto Pazzini alla fine. L'arbitro ha fatto un grosso errore, ha falsato una partita, mi dispiace perché ci tenevo, era bellissimo giocare stasera, peccato. Io guardo l'episodio, ho rivisto le immagini, io vado a cercare la palla, non guardo nemmeno lui, quindi mi sarei stupito anche del giallo. Oh, qui Osvaldo, stanno piovendo come al solito, poi te li faccio leggere, perché siamo uno di fronte all'altro, lo dico a beneficio degli ascoltatori, quindi lui non può leggere i messaggi che io leggo in tempo reale. Ti cercano e ti fanno domande e auguri e complimenti da Genova, da Cesena, non ti dico la Verona perché sarebbe troppo facile. Senti un po', il Verona quest'anno intanto sta andando un pochino meglio, no? Se non altro. Sì, in verità. Ma tu gli fai ancora compagnia ogni tanto allo stadio? O... No, no. Sono andato, era 2 anni che non andavo e quest'anno sono andato in casa con l'Legnano perché Fanna fa il commentatore e allora mi ha chiesto, perché tutte le domeniche ha un ospite che l'ha onorati 3 o 4 suoi compagni che anch'io ho allenato, insomma, e allora mi ha chiesto se andavo e sono andato ben volentieri, insomma. Ma a fare il telecronista, quindi la seconda voce? No, anch'io il commentatore del commento. Il commentatore del commento non è male. Anzi, questa è proprio carina. Senti, quindi il Verona, se non altro, sì, no, non è la sua categoria, questo lo sappiamo bene, ma insomma un po' alla volta sta provando a risalire. No, probabilmente ha tanti giovani e i giovani alternano a momenti o addirittura anche a partite, insomma, certo. Perché ci sono stati dei periodi dove il primo tempo giocavano bene o male, poi il secondo tempo giocavano il contrario del primo tempo, insomma, e questo è tipico della gioventù. Insomma. E d'altra parte se non riparti un po' dai giovani non ricostruirai mai niente, certo, no? Quindi è un prezzo da pagare. Mentre invece si è tirato sulle maniche seriamente il Chievo, mi sembra, perché il Chievo, sì, devo dire che è stato penso che il grosso merito penso che sia, a parte sempre dei giocatori, chiaro, e dell'apporto della società, però l'allenatore è stato bravo perché ha dato l'impressione, per uno di Verona che legge il giornale di Verona, vede la televisione di Verona, no? Sa un pochino le cose, però sempre le sa dagli altri, no? Però è stato coerente con le sue idee calcistiche, sì. E anche se ha avuto qualche critica per qualche giocatore che ha lasciato fuori, ma lui si vede che ha le sue idee e le ha mantenute, e questo è una cosa che è da apprezzare molto, sì, e penso che di conseguenza siano venuti poi anche i risultati. Sono venute anche certe cose. Ma frutto di questo? Frutto penso di queste cose qua. Di questa tenacia, di questa cocciutaggine. Perché c'è sempre fra allenatore e giocatore, c'è sempre. Io controllo i miei giocatori e i giocatori controllano il suo allenatore. No, certo. C'è poco da fare. È una vecchia legge. Senti, grandi cose le ha fatte, le sta facendo il Genova, certamente, sì. E sono certo che ti fanno, che fanno ti piacere. Sì, chiaro, sì, mi fanno piacere perché io sono stato bene, ho trovato la gente e quelle volte che vado là, anche se sono di situazioni tristi, dopo vedo degli amici, vedo delle persone e soprattutto come passa il tempo che cambiano le generazioni dei tifosi, però trovi delle cose che quando ti salutano, vedono che ti salutano con piacere, ti fermano, insomma, che sono cose che ti fanno piacere, perché soprattutto perché, almeno io lo interpreto così, perché sono la persona. Certo, non sono. Forse non sono neanche come allenatore, proprio anche la persona, che è stato l'allenatore del Genova, siamo d'accordo, però alla persona, e quello è quello che ti fa piacere. Lo credo, questa è la gratificazione vera, soprattutto più certo. Passano gli anni, no? Certo, sì, appunto. Gli anni ne sono passati quasi 20, questi adesso è vero che hanno perso Milito per un tempo ancora da stabilire. Ah sì? Si è stirato di brutto giocando con l'Argentina, e tra l'altro evidentemente è una fatalità, perché lui entra e sta. Però hanno quel centravanti, quello della Juventus, come si chiama? Paladino. No. Centravanti. Ah, capito, Olivera. Olivera. Che qua a Verona ha giocato e è stato decisivo. Un'altra partita in casa ha giocato e è stato decisivo, ha fatto sempre gol importanti di 3 punti, insomma. Ecco. Oddio, era meglio quell'altro, perché quell'altro dà l'impressione veramente di essere un grande. Un qualcosa di buono, insomma. Però davanti a tante cose, io penso se è il tuo anno, è chiaro che se avessero avuto Vilipto fino alla fine, se non c'era l'incidente, tu dici, se è il tuo anno, avevano sicuramente, erano più tranquilli, ecco. È un destino, evidentemente, perché Milito sognava questa maglia dell'Argentina da non so quanto. Finalmente debutta, mancavano 11 minuti alla fine, non della partita di ieri. Ah, si è fatto male giocando in nazionale. Gli ultimi 11 minuti. Dopo 5 o 6 ha sentito staffitta al bicipite femorale. Poi stanotte l'Argentina ha avuto un tracollo storico, perché ha perso 6-1 in Bolivia. Ed è il risultato, la sconfitta più pesante che l'Argentina ricordi nella storia delle qualificazioni mondiali del Sud America. E per la Bolivia sarà festa nazionale da qui ai prossimi secoli, perché secolo l'Argentina neanche al cinema se li potevano immaginare. Nella seconda parte del nostro appuntamento avremo altri argomenti da proporre. Adesso siamo arrivati vicino all'aggiornamento dei mercati, linea a loro. A tempo di sport. Visto che siamo collegati col Vinitaly, qualcuno di Verona, qualcuno scrive: ma cos'è questo brusio che c'è sul fondo? Beh, ragazzi, è il brusio della fiera, è il brusio di migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno affollando il Vinitaly esattamente come ogni anno. Tra l'altro, quello che mi fa piacere è che, come è stato pubblicato stamane dai giornali, ma poi è stato riconfermato qui nella cerimonia inaugurale, lo scorso anno, ormai in piena epoca di crisi, il consumo di vino italiano di qualità non è diminuito, è aumentato del 7%. Ora, se tutto sta, non dico andando a rotoli, ma insomma se siamo davanti a una situazione grave, oggettivamente grave, mondiale e nazionale, il fatto che ci sia quelli che parlano bene lo chiamano comparto, chiamiamolo comparto, un comparto che non solo tiene, ma che addirittura aumenta il proprio volume d'affari, significa che il vino ha seminato bene in questi anni e significa che ha creato affezione tra i clienti. Poi, ripeto, parliamo del vino di qualità, parliamo delle DOCG, parliamo dei vini DOC, non parliamo di altre cose che invece hanno subito a loro volta una contrazione, e non è detto che tutti i mali vengano per nuocere. A questo punto mi rivolgo all'albergatore Osvaldo Bagnoli e gli chiedo come va a Verona, dal tuo osservatorio di albergatore veronese, come va la crisi, se c'è o se non c'è. Io sono la dama di compagnia del mio socio, no? Io uso dire questa espressione. Fantastico, no? Che noi abbiamo registrato a questo punto, tu sai, no? Perché, e questa andrà poi come un tormentone. Perché lui adesso sta venendo giù tutte le settimane per dei motivi, insomma, e mi sento da andare a fargli compagnia, insomma. Il tuo socio, però, dico a beneficio degli ascoltatori, si chiama Nanni, ed è stato un tuo compagno di squadra. No, non è stato mio compagno di squadra. Perché c'è una generazione fra me e lui, perché ci sono 10 anni di differenza, però è stato 8 anni qua a Verona, è stato a sua volta un eccellente calciatore. Ed è stato nell'epoca Veronzi, dove diciamo che è stata una buona generazione anche quella, anche, cioè, un bel Verona. Con dei giocatori, diciamo, tipo quello che ho detto prima, Zigoni, e poi altri attaccanti che senti questi nomi qua, dico, però è Verona. A parte che Garonzi andava a prendere dei giocatori, più che lanciare i giovani andava anche a prendere i giocatori già fatti, no? E questo era un suo modo di fare calcio, insomma, no? E lui ha giocato 8 anni, insomma, e quando abbiamo fatto questa società, io sono stato chiaro, e siccome lui è una persona capace, e allora gli ho detto: oh, io ho fatto la società, però ci pensi solo te. Io faccio la dama di compagnia. E io faccio la dama di compagnia. Ecco, ma da dama di compagnia, ti pare, dai un'occhiata ai conti ogni tanto? Mi auguro che stia sentendo adesso. Sì, certo. Perché sapevo che veniva qua. No, ma se parliamo di, non dico di incassi, perché non voglio, ma se no, parliamo di presenza. C'è, in verità c'è, lo sentiamo un po' di crisi, anche se adesso in questo momento qua... questa fiera qua è quella che ci fa tirare un po' il fiato, insomma, ecco. I momenti clou della stagione veronese sono il Vinitaly adesso, credo, la stagione aregnana d'estate. La regnana. E poi dopo le fiere. E ci sono diverse fiere molto importanti, insomma, qua a Verona, insomma. Ruggero ha chiamato da Parma. Dica. Buongiorno, Buongiorno, complimenti. Grazie. Senta, io volevo solo porre questo quesito all'uomo di mondo, nel senso di mondo di calcio, oltre che del resto, per carità. Volevo chiederle, di conseguenza, quello che è successo ieri, sicuramente Pazzini avrà, se va bene, una giornata di squalifica. Ma io mi chiedo, ma i giudici, così come usano la prova televisiva per dare due giornate al giocatore che fa il furbo, ma non possono usare la prova televisiva anche al contrario? Cioè, abbiamo visto, proprio in modo la pari del fallo non c'era, a questo punto l'arbitro si è sbagliato, nessuna giornata, non dico di chiedere scusa, no, per carità, alla squadra, però mi sembra anche corretto dire ok, il ragazzo non ha fatto niente, basta, giocherà la prossima partita. Sì, sì, potrebbe essere utilizzata anche così. Una volta è stata già utilizzata in Italia una prova a discarico. Io rilevo soltanto che è il terzo intervento su tre oggi che parla dell'episodio di Pazzini. E ho proprio l'impressione che noi italiani stiamo vivendo una sindrome da moviola da cui difficilmente guariremo mai. Luca da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io non volevo parlare di Pazzini perché mi sembra che qua ne abbiamo già parlato un po' troppo. Bravo. Niente, volevo avere un vostro commento su quanto riguarda Maradona come commissario tecnico della nazionale argentina. Insomma, mi sembra che la sua nazionale abbia preso un po' il carattere del suo allenatore, molto, molto emotiva. Va a vincere 4-0 e poi va a perdere 6-1. Volevo vedere come lo vedevate l'Argentina in un'ottica, sì, di mondiali, per vedere... Così, cosa ne pensavate? Grazie, vi ascolto per radio. Le rispondo io perché in questi giorni mi pare aver capito che Osvaldo non ha seguito granché il calcio internazionale. E allora per non creargli difficoltà, poi sentiamo cosa pensa di Maradona CT, perché vi interessa ben di più quello che dice lui rispetto a quello che dico io. Volevo solo dare un elemento. La FIFA lo scorso anno aveva a un certo punto deciso di dare l'ostracismo alla Bolivia, nel senso di non far più giocare le partite alla Paz, dove si gioca a 3600 metri di altitudine. Ora, era giusto, poi il provvedimento è rientrato, ed è rientrato anche grazie al fair play delle altre nazionali sudamericane che hanno detto vabbè ragazzi, se questi vivono in altura noi continueremo ad andarci a giocare. Io non so se sia giusto o non sia giusto che... So però di sicuro, perché questo lo può dire qualsiasi medico sportivo, oppure qualunque calciatore che ci abbia provato, che giocare a livello del mare, certo, o a 3600 metri, Osvaldo, sicuramente sono vantaggi enormi per la squadra casalinga. Insomma. Questo è evidente. Non è un caso che la Bolivia, che era penultima nel girone e che adesso si è tirata un po' sulle maniche, si è tirata un po' sui panni con questa vittoria sull'Argentina. Non è un caso che la Bolivia i suoi punti li faccia in casa, perché è comprensibile, direi che ci sta. Poi detto questo, per prendere sei gol tre giorni dopo aver giocato una grande partita e aver incantato il mondo, era un periodo tra l'altro in cui si diceva, secondo me neanche tanto a torto, che in prospettiva verso il prossimo mondiale era più Argentina che Brasile, no? Come completezza di risorse eccetera, prendi sei gol di colpo, vuol dire che una qualche spiegazione ci sarà pure, non è soltanto l'altura. E qui arrivo all'opinione di Bagnoli, un uomo che ha avuto questi doni di natura come Maradona, che non so in quanti li abbiano avuti da no, sì, in Soria, certo. E che poi però ha passato tutto quello che ha passato, e che quindi cosa? È una buona soluzione per dirigere una nazionale, secondo te? O... Con tutto rispetto per il calciatore, Maradona è chiaro, insomma, però è un giocatore che poi, tra l'altro, lui quando faceva giocatore si allenava nel garage, insomma, ecco, e poi sì, si presentava alla partita. E tutto gli era concesso, sicuramente, almeno come la penso io, che sono stato un mediocre giocatore, io miravo quando andavo in campo e c'era già in campo Lidom e Schiaffino che palleggiavano, e io e mi aggregavo a loro, insomma, no? Quando, che loro si allenavano nelle. Perciò mi dà l'impressione, senza star lì, perché con tutto rispetto per la grandezza di questo giocatore, non so se è quello che può fare la predica da pulpito, insomma, ecco. Questo è un problema, soprattutto sui comportamenti, dici tu, certo, no? Sì. Per quello che poi dopo, sì, lui può dirti tante cose che poi lui interpreta anche lì, lo interpreta in un modo, perché lui se gli dici ma dovevi fare un lancio così, tanto per dire, ma il piede che aveva lui è un conto, certo. Il piede che ho io è un altro. È un'altra roba. Adesso per sdrammatizzare quello che ho detto. No, certo. Quindi questo sì, però bisogna anche vedere i pulpiti, no? E i pulpiti hanno la loro importanza. Vincenzo chiama da Salerno, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno a lei. Complimenti per il programma. Ha quasi esaurito tutto il tema del cui voleva parlare rispetto a Argentina-Bolivia, però sì. C'è da dire ancora che Maradona come allenatore ha scelto i giocatori secondo me giusti, quindi sulla scelta non si può criticare e anche sul posizionamento di questi giocatori. C'è solo da dire che forse ha subestimato alla Bolivia arrivando 2 ore prima della partita, quando altri allenatori come Passarella o come Basile pure arrivavano una settimana prima per ambientare il giocatore. Non so se però, c'è da dire qualcosa per te. No, però vede Vincenzo, lì è una storia che io personalmente avevo studiato a lungo nel Mondiale dell'82, e lì non era un problema di attitudine, era un problema di calore. A Siviglia, dove c'era il girone del Brasile e dove poi si giocarono quarti e semifinali, c'erano in quel periodo dai 42 ai 44, 46 gradi durante il giorno, che calavano appena appena all'ora della partita, cioè si giocava a 40 gradi. Ora, la Germania, quando si giocò la semifinale Francia-Italia, che io seguì, io mi ricordo che la Francia arrivò immediatamente dopo la precedente partita per acclimatare i giocatori al caldo e farli allenare in 3 giorni. La Germania si imbarcò la mattina stessa da dove stava, che era Gijón, credo, comunque nel nord della Spagna, al fresco, e dall'aeroporto filò direttamente nelle camere con l'aria condizionata senza mettere il naso fuori per non avere quel tipo di impatto. Poi alla fine fecero tutte e due i supplementari, arrivarono tutte e due morti dopo quella partita con i rigori e finché ce n'è, e quindi è difficile dire quale sia o quale sia stata in quella fattispecie la ricetta esatta, però sono due teorie ben precise che partono da scelte mediche anche, Osvaldo. Penso che anche lì è messo in dubbio anche la medicina, mi dà l'impressione sotto questo aspetto, sì. Qua insomma. Non è facile, penso, neanche per loro decidere, perché anche lì ci sono delle persone che ognuno reagisce al suo modo diverso, al caldo e al freddo, insomma, ecco. E comunque non è facile. Non è facile, no, ma ci sono proprio due teorie che dicono: una, o puoi fare un'acclimatazione veramente lunga, ma se non puoi fare un'acclimatazione lunga, e l'Argentina qui non la poteva fare perché aveva una partita da un'altra parte 3 giorni prima, tanto vale che arrivi all'ultimo minuto che non accusi bene lo sbalzo. Io non so se è vero. No, il discorso è che medici dicono ci sono 20 giocatori e 20 giocatori, ci sono 20 persone che subiscono il caldo, il freddo in un modo diverso. In maniera diversa, sia sempre lì. Intervallo, l'ultimo di oggi per le strade. A tempo di sport. Rientriamo, torniamo in onda e questo è l'appuntamento, come sapete, l'ora dell'appuntamento con il ripasso della storia. Che cosa è successo nella storia dello sport nella giornata di oggi, cioè nella fattispecie il 2 aprile? Sentiamo. Sembra ieri. 2 aprile 1994. La Juventus di Trapattoni batte per 1-0 l'Inter, allenata da Giampiero Marini, grazie a un'autorete di Riccardo Ferri. Per lo stopper nerazzurro si tratta dell'ottavo autogol in Serie A. Il primo lo aveva realizzato il 28 marzo del 1982, in Roma-Inter 3-2. Le 8 autoreti di Ferri rappresentano tuttora il record del massimo campionato. Il difensore del Cagliari campione d'Italia, Comunardo Nicolai, famoso per alcune spettacolari deviazioni vincenti nella propria porta, ne ha realizzate 2 in meno. Questa è carina. Oggi Nicola Filippone è andato a pescare una curiosità. No, non masochista per lui, ma dei grandi masochisti storici, involontari evidentemente, della storia dei campionati. Anch'io pensavo che fosse Nicolai il detentore assoluto e invece era Riccardo Ferri. Osvaldo, che cosa hai visto quest'anno di bello nel calcio, o di brutto, o di nuovo, o di particolarmente interessante nel nostro campionato? Ma non saprei dire la verità, proprio così tanto Io se dovessi dire, direi qualcosa che non riguarda proprio al calcio in se stesso, perché dico, io guardo la televisione e chi mi tiene più attaccato alla televisione nelle partite, cioè se io una domenica vado a casa alle 3 e mi metto davanti alla televisione, io giro, no? Perché con la Sky vai su tutti i canali, seguo. Certo, certo. L'unico che mi tiene proprio in quel lato, uno di è Totti, che purtroppo quest'anno è uno dei giocatori, penso, e che è sempre stato un po' martellato dalla sfortuna, insomma, ecco, soprattutto negli ultimi anni. Ma, ecco, negli ultimi anni ha trovato tanti incidenti e che cioè, se tu vuoi soleticare il palato, in altre parole, no? Lasciando stare la dama di compagnia, sennò qua andiamo su discorsi impegnativi. Se tu vuoi soleticare il palato calcistico, tu vedi. Io mi ricordo che l'anno scorso dicevi che volevi vedere giocare la Roma, in particolare per questo gioco volante, per questo gioco. Che anche quest'anno invece non è stata capace di mettere. Probabilmente. Ha avuto tanti infortuni e certi giocatori non è facile a cominciare da quello lì che hai detto tu, però. Cominciare da lui sicuramente, insomma. La domanda successiva è questa, reso omaggio alla classe e all'incidenza che ha Totti, no, nella Roma, che è molto più alta di quanto non si pensi. Parliamo di infortuni proprio, visto che Totti è uno di questi casi, cioè c'è una moria sempre più grande, no, sia di quantità che di qualità, perché di quantità nel senso di quanti ne succedono, ma di qualità nel senso che le prognosi sono sempre più lunghe, cioè ora, dato che hai giocato tanti anni, hai allenato tanti anni e cosa, la tua spiegazione qual è? Ma io adesso mi domando anch'io, no? Perché io quando facevo allenatore nella mia poca cultura di certe altre cose, avevo sempre il timore che nei miei giocatori avvenisse, non so, lo strappo, qualcosa di muscolare, dove si può pensare che c'è qualcosa di sbagliato nel lavoro o nella preparazione, certo. No? Adesso invece succedono ancora queste cose qua, ma succedono tante cose sui legamenti. E quello che si diceva già allora, che tu puoi rinforzare il muscolo, tonificarlo, però i tendini restano sempre quelli, perciò c'è un muscolo che, io nella mia ignoranza di quello che esprime una potenza tale, e che c'è invece il tendine che a quella potenza lì non ci arriva, non so. E poi posso pensare al fatto che quando dicono che è cambiata la velocità, io non sono tanto d'accordo. Proprio tanto d'accordo che è cambiata la velocità, che adesso si gioca più veloce, si gioca più organizzati, su questo è troppo evidente, no? Però si gioca con la doppia velocità. L'allenatore di ieri sera che parlavamo, che è stato la storia del calcio degli allenatori Trapattoni, io lo sentii una volta in televisione dire, era la Fiorentina, su un gol che aveva preso la Fiorentina, dire adesso quel gol lì si è preso, forse un po' di tempo fa non si prendeva perché si rispettava di più il termine temporeggiare. Adesso il tempo temporeggiare, chi va ad aggredire non c'è più, non c'è più. O si entra e, come diceva il tuo amico Rocco, diceva entra, se prendi anche il pallone è una bella cosa, no? Mi pare che l'abbia detta lui quella frase lì, e mi sembra che adesso si sia arrivato a questi livelli qua, insomma, ecco. Si vedono delle entrate che io dico che chi entra anche se è in ritardo, insomma, e queste cose qua non si fermano più, e questo io penso che è la doppia velocità, insomma, anche se è aumentata un po' la velocità, però non è quella per me la grossa differenza, insomma. È affascinante questa teoria della doppia velocità, così come è molto istruttiva la prima. E devo dirti che ieri sullo stesso argomento vecchio nel senso di militanza, dottor Monti, lo storico medico del Milan, diceva esattamente la stessa cosa tua, e diceva: guardate queste masse muscolari, pensate a quanta palestra fanno oggi, e pensate anche che lo chassis della macchina, tre parole, chassis è quello, e se gli metti i motori, queste cose qua le sentivo già vent'anni fa, cioè quando io facevo allenatore, dove c'erano già quelli che iniziavano a lavorare per irrobustire i muscoli. Tutto potenziamento. Perciò adesso sono passati 20 anni. Ti puoi immaginare. Capirai. Cosa sarà successo? Antonio da Firenze, mancano 2-3 minuti alla chiusura. Dica Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Innanzitutto ho potuto seguire solo gli ultimi minuti della trasmissione, quindi mi scusi se magari il mio intervento è dirò cose già dette. Però volevo fare un piccolo rilievo alla prestazione dell'Italia di ieri. Ecco, al di là dell'espulsione che insomma abbiamo detto a falsata partita e sarebbe andata forse diversamente. Io però onestamente ho visto una squadra troppo arroccata, rinunciataria, mai propositiva. Ha fatto il gol, buttata la palla dentro, si è visto il solito schema, tutti dietro e tutti a proteggere, tutti a chiudere. Togliere Pirlo, che era l'unico insomma che dava accendeva qualche luce, faceva qualche proposta interessante di gioco, mi è parsa veramente una soluzione troppo rinunciataria. Tant'è vero che alla fine abbiamo avuto, secondo me, una giusta punizione col pareggio arrivato agli ultimi minuti, ha premiato una squadra insomma che ha corso tanto e ha forse ci ha provato fino alla fine. Certo, estrameritava Antonio quel risultato. Anzi, alla fine poteva fare pure il colpo, perché una volta se pareggia qualche minuto prima, secondo me vince anche la partita. Un attimo di pazienza, un altro ascoltatore in linea, perché Francesco da Milano fa una bella domanda a Bagnoli, anzi al maestro Bagnoli, come lo chiama lui. Come ti comporteresti con Cassano? Cioè, tu un talento così, nonostante quel carattere, lo vorresti in squadra oppure ne faresti sinceramente a meno? Ma sicuramente come giocatore è quello che dimostra poi dopo lui di essere, no? Però convive con 20-25 adesso al giorno d'oggi, compagni di squadra. Ecco, per dire questa cosa qua dovrei vedere come si comporta quando è insieme ai suoi compagni. Adesso dirlo così, che il ragazzo può essere strano, però se lo sopporta, l'ha sopportato la Roma, l'ha sopportato la Sampdoria, non so, ecco, però io mi baserei su queste cose qua, perciò dare una risposta è difficile. Da fuori non può. È difficile. Devi vivere quella situazione lì. Devo vivere, devo capire come viene accettato. Sì, come viene accettato. Cioè. Chiudiamo con Daniele, che ha chiamato dalla provincia di Belluno. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica Daniele. Niente, io più o meno gli argomenti che volevo trattare che sono già stati detti. Intanto un saluto a Bagnoli, che persone così nel calcio d'oggi ne mancano, ne vediamo col binocolo, diciamo. E una cosa, a parte diciamo il bilancio, riassumendo, il bilancio delle due partite, l'Italia anche dal punto di vista arbitrale non mi sembra che possa recriminare molto. Perché tra il rigore non dato all'Irlanda ieri e l'espulsione di Cannavaro l'altra volta e l'espulsione che c'è stata ieri, era più macroscopico l'errore della non espulsione di Cannavaro ieri che quella di Pazzini l'altro giorno rispetto a quella di Pazzini ieri. Sì, sì. Sì, forse sì, però insomma non stiamo a fare poi il conto dettagliato. È stato una 4 giorni non particolarmente brillante complessivamente e alla fine ha reso quello che doveva rendere, 4 punti abbastanza meritati anche se quel pareggio lì è arrivato alla fine. Poco importa, vista anche la classifica, importa invece che il tempo è finito anche oggi e che quindi la squadra di Radio 24 da Vinitaly, cioè Valerio Usiello, Filippo Aureggi, Davide Ciocia, mentre in studio a Milano credo ci sia Fabio Cantadori, e oltre ovviamente a Flavio Suardi che ha assistito a distanza, vi diamo appuntamento ad altri programmi che andranno in onda qua da Vinitaly. Io personalmente ci tornerò con l'edizione di A Tempo di Sport di lunedì. Un ringraziamento, un abbraccio direi a Osvaldo Bagnoli per quest'altra sua straordinaria partecipazione. Ciao Osvaldo. Ciao. Buon pomeriggio.